benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di Indie Media Calabria. Indie Radio, lo ricordo, la potete ascoltare solo su Radio Transizione di Fase ogni venerdì alle ore 21 ed in replica ogni sabato alle ore 12. In questo numero parleremo di lavoro, lavoro negato, lotta per il lavoro, lotta che tante volte viene perseguitata. Infatti ricorderemo l'arresto di numerosi attivisti disoccupati di Brindisi, dei rispettivi comunicati di solidarietà e attestazioni di stima ricevute da questi militanti, da questi lavoratori che sono stati arrestati per aver lottato, per aver dimostrato per la richiesta di un proprio diritto, cioè il diritto al lavoro. Parleremo ancora di altre lotte legate al mondo del lavoro e ancora parleremo di questi momenti di avvicinamento al 15 ottobre, giorno cioè nel quale si attende questa manifestazione europea della indignazione. In Italia, lo ricordo, vi sarà un corteo a Roma, un corteo nazionale. Ma continueremo anche a parlare di antifascismo, vi racconteremo di un episodio di qualche giorno fa accaduto a Napoli e in base a quello ricostruiremo le vicende dei fascisti che in questa città, nella città di Napoli, non sono mai riusciti a trovare terreno fertile per le loro attività, diciamo così, politiche. Parleremo poi di quelle che sono le notizie relative alla raccolta differenziata, che sempre a Napoli prende il via addirittura presso gli accampamenti Rom e che invece a Cosenza pare prendere il via in maniera un po' anonima in una piccola parte della città di Cosenza. E parleremo anche di lotte per la conoscenza e delle relative repressioni sinceramente inspiegabili da parte dello Stato. Infatti ricorderemo quella che è stata una occasione per la cultura a Roma di incontrarsi in una biblioteca, ovvero nella Biblioteca Nazionale. Infatti si erano dati appuntamento in questa importantissima e prestigiosa sede archivisti, bibliotecari, ricercatori, studenti, lettori, utenti, cittadini delle biblioteche. Il tema era quello dei tagli e del come questi tagli si riflettano poi sulla qualità dei servizi bibliotecari che in Italia diventano sempre più esigui, sempre più biblioteche praticamente rimangono chiuse, sempre più biblioteche sono prive di personale specializzato, si tende soprattutto in Italia come nelle biblioteche e in tanti altri settori a demandare al volontariato, così come se il volontario fosse una persona specializzata e qualificata. In realtà troviamo nelle biblioteche molti ragazzi del servizio civile che poco o nulla conoscono del funzionamento delle biblioteche, ma questo era soltanto uno degli aspetti della giornata del 12 ottobre, aspetti che sarebbero stati discussi e che sono stati poi effettivamente discussi, ma non all'interno della biblioteca, bensì fuori dalla biblioteca. Infatti al loro arrivo le persone che erano giunte in questa sede, richiamate anche da alcuni programmi radiofonici, per esempio pensiamo a Frenight, un programma della RAI che aveva ampiamente pubblicizzato l'evento, ebbene le persone che si trovavano lì fuori hanno potuto constatare la presenza ai cancelli della biblioteca di una grande e massiccia presenza di forze dell'ordine in assetto antisommossa. Tutto ciò chiaramente ha impedito alle persone, ai cittadini, ai frequentatori delle biblioteche, bibliotecari, archivisti, studenti, lettori, tutto ciò ha impedito lo svolgersi all'interno della biblioteca di questa importante ed interessante assemblea. Quindi la repressione si abbatte anche sulla cultura, è negato dunque l'ingresso, le persone lì accorse hanno creato all'esterno, hanno dato vita all'esterno all'assemblea che si erano prefissi di porre in essere. Quindi nulla ha potuto fermare la cultura, speriamo sia sempre così. Speriamo che la cultura non sia fermata dalla polizia in assetto antisommossa. Questo comunque la dice lunga su come venga vista la cultura in questo stato italiano. Va perseguitata e rinchiusa all'esterno delle istituzioni. È veramente una interessante posizione. Ma non basta, infatti in questi giorni la repressione, oltre che abbattersi sui lavoratori, oltre che abbattersi sui disoccupati, oltre che abbattersi sulla cultura, si abbatte anche sugli spazi sociali. Ed è emblematico però che la città nella quale si verifica questo sia L'Aquila, una città che è stata devastata dal terremoto e non solo, è stata anche devastata, come lo sappiamo bene, da una cattiva gestione della ricostruzione e dalle conseguenti speculazioni edilizie che sono state guidate da diversi esponenti dell'industria, così come dell'industria di Stato. Ma è inutile dilungarci su questo, vi racconteremo infatti di quello che è accaduto nell'asilo, uno spazio occupato lo scorso inverno e che oggi il comune dell'Aquila ha pensato bene di reprimere e perseguitare. Ebbene, vediamo che gli spazi sociali in Italia diventano sempre più perseguitati ed è sempre più difficile vivere in zone occupate. Speriamo che questa non sia una tendenza che faccia scuola, però sappiamo bene che effettivamente è così, si cerca di reprimere o di inglobare per privare di significato gli spazi sociali occupati. Speriamo dunque che lo spazio sociale all'Aquila continui ad esistere e a vivere. Questi sono dunque gli argomenti di Indie Radio per questa sera. Noi vi auguriamo un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi e continuate a leggere Indie Media Calabria ed Indie Media Italia. Infine una notizia veramente flash, vi ricordo che su Indie Media Italia per quanto riguarda il 15 ottobre è stato allestito uno spazio dedicato e questo per dare maggiore risalto alla giornata. Vi preghiamo di leggere le varie parti di questa sezione dedicata al 15 ottobre, di farne tesoro e di utilizzare il sito di Indie Media Italia. All'improvviso si soggia un bel sorriso, è solo col buon viso che si può giocare due. La scelta del prodotto, qualcosa che sia ghiotto, gustoso, conveniente ma ridotto. Terzo, si studia l'etichetta, si stacca la linguetta, possibilmente fatto in tutta fretta. Quarto, si fa un respiro forte, si passa tra le porte, solamente allora potrei dir funziona, non suona. E allora ora rientro fischiettando, ma sottovalutando ciò che mi potrebbe capitare. Giro là intorno agli scaffali, ricolmi di regali, da offrire in occasioni un po' speciali. Forse per l'eccessiva fretta non vado all'etichetta, conseguentemente alla linguetta. Quindi ripasso tra le porte, respiro meno forte, ma sento che qualcosa non funziona. Suona! Che pacco! Le mani! Sacco! avanti, si sosta. Relativo ad alcuni arresti, 18 per la precisione, effettuati ai danni dei disoccupati organizzati di Brindisi, che sono stati arrestati con diverse accuse, leggiamo testualmente: violenza privata aggravata, arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole ed industriali, sabotaggio, interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ed evasione. Sono dunque questi i reati contestati ai 18 esponenti del Comitato dei Disoccupati di Brindisi, e fra questi ricordiamo la presenza anche di Roberto Aprile, detto Bobbo, che è stato appunto arrestato con gli altri compagni. Ormai dunque di essere disoccupato e manifestare per i propri diritti è fonte di persecuzione. Queste occupazioni inscenate per protestare e per cercare di ottenere un proprio diritto, cioè quello al lavoro, sono state dunque motivo degli arresti. Chiaramente non solo dal mainstream, ma anche e soprattutto dalle varie realtà locali, leggiamo alcuni comunicati, in particolare, sempre su Indimedia Calabria, leggiamo un comunicato di solidarietà a opera di alcune delle realtà di Salerno. Diamo dunque lettura di questo comunicato. La triste e drammatica vicenda dei disoccupati meridionali organizzati, ma principalmente delle decine di compagni che promuovono e cercano di dare non solo dignità ad una umanità sofferente, togliendola da una logica di umanità plebea, servile e quindi ricattabile e manovrabile, non può che non determinare uno spirito di fratellanza e di solidarietà. Ormai non si contano più le centinaia di processi, i milioni di euro da pagare per i blocchi ferroviari, eccetera, le misure restrittive e le minacce delle sorveglianze speciali a cui con cinica e costanza metodologica vengono informati e convocati dagli organi repressivi decine di disoccupati tra Napoli e Salerno. Le nostre lotte, che hanno esclusivamente il valore di umanizzare la vita, sono considerate pericolose in quanto mettono a nudo l'incapacità, non volontà, di un sistema politico, finanziario e capitalista ormai in piena agonia, a cui non resta altro che reprimere sia in scala locale che a livello internazionale. È arrivato anche il momento che venga rilanciata la proposta della depenalizzazione dei reati legati alle lotte sociali, culturali ed ambientali. Un fraterno abbraccio dai compagni del Movimento dei Disoccupati di Salerno e dai compagni tutti. Il comunicato di cui abbiamo proprio ora dato lettura è firmato da Movimento Disoccupati Salerno, CSA Asilo Politico, RSU Pob Comune di Salerno, RSU Ospedale San Lorenzo. Cappuccino. mondiale, già vincente della differenziata, un progetto di raccolta per i campi Rom. Infatti scrive in questo articolo che estendere la raccolta differenziata all'intera città equivale a parlare di interessa, ovvero anche di quegli spazi spesso obliati dai progetti comunali e che invece in tema rifiuti risultano di essenziale inglobazione. Prende così via il progetto considerato pilota per la raccolta differenziata all'interno dei campi nuovi di Scampia e Secondigliano. Si tratta di una programmazione strutturale che porta alla sensibilizzazione e formazione anche della comunità Rom e che vedrà il servizio di raccolta completamente affidato agli stessi abitanti. Ebbene, vivendo in Calabria invece vogliamo ricordare anche un'altra notizia, sempre relativa alla differenziata. Infatti è partito negli scorsi giorni anche a Cosenza il progetto pilota per la raccolta differenziata. Tuttavia questo progetto chiaramente non viene esteso immediatamente a tutta la città, ma solo a una piccola parte. In particolare viene attribuita e viene sperimentata questa nuova forma di raccolta delle immondizie in una specifica località che sarebbe Donnici, Borgo Partenope, che sono cioè dei piccoli paesini che rientrano comunque all'interno del comune di Cosenza. Sicuramente sarà molto più facile e agevole effettuare la raccolta differenziata in luoghi praticamente ubicati in campagna piuttosto che al centro cittadino. Però è mancato, almeno in questa prima fase, da quello che possiamo leggere su vari siti di informazione, è mancato un iniziale momento di formazione dei cittadini. Pare che siano semplicemente state consegnate delle buste e dei kit per la raccolta differenziata, ma probabilmente non è stata effettuata sul territorio alcuna forma di sensibilizzazione, tantomeno sono state addirittura, per quanto riusciamo a leggere su alcuni siti, fra cui anche Indimedia Calabria, probabilmente alcune zone di queste frazioni non sono nemmeno state toccate dalla distribuzione di questi kit. Ebbene, parte la differenziata anche a Cosenza, però mentre a Napoli andiamo a fare raccolta differenziata anche nel campo Rom, a Cosenza si va in queste piccole frazioni dimenticandone alcune parti. Ma staremo a vedere. Wish for a weekend party list. If I were in a country now, if I were in a country now, do you miss if you were true? Or do we tell you the we don't care? Do we tell you the we don't care? Hey! Perfect government is here. Well, when you let us march is here. Perfect government is here. Well, when you let us march is here. Hey! Perfect government is here. Dal 2008 Casa Pound è stata cacciata sistematicamente da ogni scuola e facoltà partenopea. Nel 2009 una larghissima mobilitazione cittadina ha fatto sì che Casa Pound non potesse avere un posto occupato né nel quartiere di Materdei né altrove in città. A Napoli Casa Pound organizza feste super segrete, fa attacchinaggi lampi notturni utilizzando il vetro di manifesti del PDL. Candida i propri militanti con il PDL e con tratti rifiutati. Non avendo alcuna agibilità politica, rimangono chiusi nella loro stessa cerchia di militanti. In questi anni sono state numerose però le aggressioni e le minacce da parte di questi fascisti. Ma mai in città è stato fatto un passo indietro, nemmeno quando sono arrivate le coltellate, le denunce, le manganellate. Ecco perché, ancora una volta, mercoledì 5 ottobre 2011, un centinaio di studenti sono scesi in piazza per impedire che fascisti armati di mazze e coltelli potessero girare indisturbati per le facoltà di Napoli. Martedì 4 ottobre Casa Pound denuncia un'aggressione subita fuori la facoltà di giurisprudenza. La verità è che gli studenti si sono limitati a ribadire un concetto semplice: i fascisti stanno bene nelle fogne, non in mezzo agli studenti e a tutti gli altri cittadini della nostra città. L'aggressione è denunciata da Emanuela Fiorino, figlia di Michele Fiorino, vecchio mattiere fascista, ex senatore dell'MSI Fiamma Tricolore, accusato dal sentito ministro come mandante di un triplice omicidio di stampo mafioso, segretario della sezione Messina Berta di via Foria nel 75, anno in cui alcuni fascisti di quella sezione con il lancio di bottiglie Molotov causarono la morte di Yolanda Palladino. La denuncia dell'aggressione della Florino è però il pretesto per presentarsi fuori la facoltà il giorno seguente, mercoledì 5 ottobre, difesi e protetti da decine di poliziotti e Digos che hanno consentito ai fascisti di volantinare per circa un'ora. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock. Woo. I hate all of my school's rules. They just think that I'm and yet a fool. Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock. Oi! Oi. Bus driver, ambulance man, ticket inspector. Understand, they're gonna have to introduce conscription. They're gonna have to take away my prescription. If they want to get me making toys, if they want to get me, I got no choice. Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you out the dock. Careers, career, career opportunities. Media Italia leggiamo della notizia che riguarda la manifestazione alla Banca d'Italia a Bologna del 12 ottobre scorso. Nella giornata di oggi, in cui a Roma, Palazzo Koch, nel cuore della capitale, si terrà il convegno internazionale L'Italia e l'economia mondiale 1861-2011, con la presenza del Presidente della Repubblica Napolitano e del Governatore della Banca d'Italia, futuro Presidente della BCE, Mario Draghi, i movimenti, in vista della giornata internazionale di lotta del 15 ottobre, hanno lanciato una protesta di fronte alle sedi della Banca d'Italia nella capitale, dove l'appuntamento è questo pomeriggio, e non solo. A Bologna, davanti alla sede della Banca d'Italia, c'erano circa 300 persone che, per ben due volte, hanno tentato di attraversare il cancello che delimita l'edificio, ma i carabinieri, in assetto antisommossa, presidiavano la sede locale del potere economico italiano e per ben due volte ha caricato selvaggiamente i manifestanti, che hanno riportato alcuni feriti. Gli slogan e gli striscioni erano tutti tematizzati sul diritto all'insolvenza e sul fatto che il debito italiano è un debito contratto dai banchieri e dai potenti e che quindi questo non debba essere scaricato sulle spalle dei lavoratori precari, degli studenti, dei migranti, dei ceti medi, sempre più in declino sociale. Dopo i fronteggiamenti con le forze dell'ordine, un lancio di uova e di vernice contro il portone di Banca Italia è servito per lanciare un corteo per le vie del centro storico, che si è subito diretto all'ufficio pignoramenti del Tribunale di Via Monticelli, qualche centinaio di metri più in là, che è stato occupato con un conseguente sfondamento dell'ufficio notifiche e lancio dalle finestre di tante cartelle fattoriali e penali, che di fatto sono la realizzazione pratica delle conseguenze del debito e dell'impoverimento che questo comporta. Il corteo si è poi allontanato dagli uffici del Tribunale prendendo la direzione della zona universitaria e concludendosi in Piazza Verdi, nella quale è stata rilanciata l'importantissima giornata di sabato prossimo a Roma, dove un nuovo movimento globale potrà avere un momento di emersione collettivo, caratterizzato ovunque dal rifiuto del debito e di questa classe politica. Dal sito di Napoli Indie Media leggiamo invece un comunicato di alcuni lavoratori Cobas che nella mattina dell'11 ottobre hanno occupato l'azienda Aspir S.p.A. Questi lavoratori infatti hanno occupato l'azienda per protestare contro il ritardato pagamento di parte dello stipendio di agosto e di quell'intero di settembre, e inoltre vi sono anche addirittura 10 mesi di ticket mensa arretrati. Inoltre questi stessi lavoratori protestano contro il piano industriale presentato dall'amministrazione aziendale, che prevede pesanti tagli ai salari dei lavoratori. Quindi in definitiva questi lavoratori non fanno altro che reclamare un loro diritto, cioè venire pagati, e nel contempo continuano a manifestare per la salvaguardia del loro posto che è minacciato da una cassa integrazione che è, da quanto è dato capire, mina pesantemente il futuro lavorativo di questi lavoratori. Questo è un periodo dunque di crisi, le fabbriche iniziano a essere occupate, le aziende ugualmente, staremo a vedere che cosa succede. Piensas echar atrás, tienes amado ya estás otra vez. Una notizia su Indie Media Abruzzo che riguarda gli spazi sociali e si tratta di una feature. Voi spegnete l'asilo, noi accendiamo la città, questo il titolo. Occupare in pieno inverno uno stabile senza riscaldamento, abbandonato da quasi 2 anni all'Aquila, non deve essere stato facile. Ora che si avvicina un altro inverno, l'amministrazione comunale pensa bene di staccare anche la corrente all'asilo occupato, un luogo che nel corso di questi mesi è diventato un punto di riferimento per l'organizzazione di molte attività sociali e culturali in una città in cui tutto sembra essersi fermato. Quindi non solo terremoto, non solo speculazione edilizia, non solo speculazione sulla ricostruzione, ma anche sgomberi di spazi occupati. I nostri più vivi complimenti a questa sensibilissima amministrazione comunale. Solidarietà più viva allo spazio sociale e l'asilo. Bye. generale, diciamo, di uno streaming previsto alla Biblioteca Nazionale, perché martedì 11 ottobre è stata indetta un'assemblea pubblica presso la Biblioteca Nazionale di Roma, alla quale sono stati chiamati a partecipare i bibliotecari, i lavoratori della biblioteca, gli archivisti, gli utenti della biblioteca, gli scrittori, i redattori, i traduttori, i giornalisti, gli editori, i grafici, i ricercatori, gli insegnanti, i semplici lettori e soprattutto i semplici cittadini, che al loro arrivo hanno trovato i cancelli sbarrati e piantonati dalla polizia ad impedire l'accesso. Questa assemblea era in realtà stata ampiamente pubblicizzata addirittura sui media nazionali, su programmi radiofonici come Fahrenheit, e tuttavia al loro arrivo, come dicevamo, le porte della biblioteca erano state chiuse e addirittura vi era un numero esorbitante di polizia in assetto antisommossa. E tutto ciò è inspiegabile, soprattutto perché si voleva parlare degli effetti della crisi, dei continui tagli dunque, sulle biblioteche, ma tutto ciò è stato possibile farlo soltanto al di fuori della Biblioteca Nazionale. Le biblioteche dunque chiuse con la protezione di personale della polizia in assetto antisommossa. Tutto ciò è alquanto inquietante. Su Indimedia Roma comunque potete trovare alcune notizie in più e vi invitiamo a visitarle. Ogni mattina, ma è un mezzo pubblico pure la ghigliottina. Io per pagarmi la marmitta catalitica mi son dovuto vendere tutta la macchina. Tanto sarà tutta corsia preferenziale per collegare ministeri, trattoriole, discoteche, osterie, boutique e birrerie. Onorevole che prende salto il primo, di secondo cosa c'è? Sopravvoliamo sul territorio urbano. E non ci resta che salutarvi, anche per questa sera il mio radio finisce qui. Continuate dunque ad ascoltare Radio Transizione di Fase e seguite le informazioni e partecipate ai siti di informazione altra, soprattutto Indimedia Italia, Indimedia Calabria. Buonasera a tutti, ciao. Conviene andare sempre in giro corazzati. E ora che pure Berigni si è sposato, non ci sta più chi ci bestemmia sul mercato. Sciogliamo le camere per un mondo migliore. Sciogliamo le camere con i caschi blu. Sopravvoliamo sulla giunta di Milano. Di chi? Sopravvoliamo. Amore, toccami le mani. Discorso all'italiano, sopravvoliamo e vai col chibrisa. Cosciette! Pare, se io ti amo e tu mi ami veramente, la nostra storia non è molto interessante. Se invece ti detesto e neanche tu mi ami, vieni a stare la coalizione di domani. Ma in questa guerra che ci lascia tutti illesi, né vincitori né perdenti sono offesi. È un grosso rischio procreare dei piccini, se me li tiri su col film di Oltorini. Sopravvoliamo sul cinema italiano. Di chi? Sopravvoliamo su Baiano. Sopravvoliamo su Sonano. Di chi? Di chi? Sopravvoliamo e vai. urbana.